Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Parleremo delle iniziative che esplicitamente ne conseguono, non che ci porremo il problema se le leggi ce le facciamo noi o ce le troviamo belle fatte. Parleremo di ambigue unità e di divorzi.